prepare this world, make this time different than all the rest. Известные проблемы в мировых финансах. I'm beginning a conversation with you, with America. Jefferson 2, l'arte della svolta. Di Stefano Pistolini. I will not be an automatic 60th vote. I have always agreed with John Kennedy that sometimes party asks too much. Questa è la spiegazione ufficiale che il veterano senatore repubblicano, ex repubblicano, Arlen Specter, 79 anni, una vita trascorsa al Congresso sotto i colori del Greater Party, no, del Partito Repubblicano Conservatore Americano, ha dato per appunto giustificare la sua defezione, il suo ciao ciao, il suo salto dello steccato, insomma il suo passaggio sotto i colori democratici. Detto come il buon John Fitzgerald Kennedy evocava, chiedeva, non si può, il partito non può chiedere troppo ai suoi rappresentanti, non può pretendere di cambiare troppo idea, di iscriversi a linee di comportamento, a punti di vista, a strategie troppo lontane da quello che può essere il tuo convincimento principale. Poi in sottordine ha detto anche tutt'altro, ha detto: ma guardate, io sì, ho 79 anni, ma ho ancora delle cose da dire in politica, intendo correre nel 2010 nel mio stato della Pennsylvania, e la sapete una cosa, secondo me come repubblicano avevo pochissime chance di vincere, quindi correrò come democratico, un bel esempio di disinvoltura, no? Politica che ha reso a dir poco felici, entusiasti i democratici del Senato e più in genere l'amministrazione Obama, per un preciso motivo che adesso andremo ad esaminare, non prima di aver ascoltato come tutto ciò è stato messo in farsa, perché poi un po' una farsa, un po' una pochade, questa è, da parte di Rachel Maddow, che in questo momento forse è la più affilata, la più brillante, la più divertente commentatrice satirica americana, con il suo show che va in onda su MSNBC. Ascoltate un po'. Qui sono i democratici quando vengono a sapere che Specter ha cambiato bandiera. Specter's not a Republican anymore. Specter's not a Republican. Woohoo! And now Democrats, e poi quando ci pensano 5 minuti. Wait. Arlen Specter's a Democrat now? A Democrat? Isn't that kind of a stretch? Arlen Specter è un democratico, ma state scherzando? Insomma, c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che ha il sapore di quell'opportunismo vecchia Washington, vecchia politica, contro il quale Barack Obama tante volte si è espresso, no? Ha preso posizione, eppure è stato proprio Obama il primo a congratularsi, a ringraziare, a dire che era una magnifica notizia quella che gli veniva recapitata dal vecchio Specter, anche per un motivo molto semplice, che così siamo a 59, ovvero il Partito Democratico in questo momento e fino alle votazioni di mezzo termine previste per novembre 2010 controlla 59 voti al Senato americano. 59 è uno meno di 60. C'è in ballo eternamente da 6 mesi, in una battaglia infinita su cui scriverà un libro, farà un film, 4 documentari e diventerà ospite dei talk show, ma forse anche di qualche manicomio se dovesse finire male, il ben noto Al Franken, ex giornalista, ex commentatore, ex umorista, da qualche tempo convertito prima alla radiofonia, avendo fondato una radio americana di discreto rumore e scarso successo, si chiamava Air America, una specie di progressive radio, no? In risposta alle talk radio conservatrici. Poi Al Franken si è buttato direttamente in politica, ha corso contro Coleman, il detentore del seggio senatoriale, di uno dei seggi senatoriali per il Minnesota, e non si è mai capito come questa corsa è finita. I due in realtà, in sostanza, stanno litigando ininterrottamente dalla notte del 4 novembre. Ho vinto io, hai vinto tu, ho vinto io, ho un voto in più, ho 4 voti in meno. È talmente complicata la cosa, il conteggio è stato rifatto più volte, poi ci sono i voti invalidati, poi ci sono i voti falsi, poi ci sono i brogli, poi c'è ogni motivo buono per litigare. La cosa finirà in tribunale, questa estate, quindi fino a quel momento non si avrà un esito, e lì si capirà se Al Franken, come sembra, diventerà il titolare del 60° seggio senatoriale democratico. A quel punto, con 60 seggi senatoriali, per Barack Obama si apre una prospettiva estremamente interessante, ovvero quella di no filibuster, di respingere gli ostruzionismi montati all'interno del Senato per bloccare le sue iniziative, le iniziative del Partito Democratico. In pratica è quella che si chiama una maggioranza a prova di bomba e a prova di contestazione, che può quindi pilotare con molta destrezza, con molta abilità, con ottimi risultati le proposte della Casa Bianca. Ripeto, è una finestra che durerà solo un anno, poi tutto verrà rimesso in discussione dall'estate del voto di Franken fino al voto del medio termine, appunto dalle votazioni che rinnoveranno alcuni seggi senatoriali. Questo è lo scenario, è uno scenario assai interessante, che però non tiene conto di un ultimo dato assai importante, che è la natura stessa mentale, diciamo così, dei democratici americani. Infatti la stessa nostra Rachel Maddow nel suo show a un certo punto dice: sì va bene, allora contiamo anche al Franken, i voti dovrebbero essere 60, ma quelli non sono 60 voti a sostegno del Partito Democratico, sono i voti di 60 democratici, che non è assolutamente la stessa cosa, perché i democratici votano come gli pare, a ciascuno fa quello che gli fa comodo fare, tanto più che adesso, proprio con l'arrivo di Arlen Specter, ma anche con il posizionamento diversificato di molti senatori, tanto più in risposta all'insediamento alla Casa Bianca di Barack Obama, è nata una nuova corrente che si chiama CONDEM, che sarebbero i conservatori democratici o democratici conservatori, i democratici di destra. È una vecchia storia che gira da tanti anni nella politica americana, ma che potrebbero alla fin fine dare spesso e volentieri segni di insubordinazione rispetto alle direttive dei grandi capi, e quindi boicottare dall'interno, come si può dire, le iniziative della Casa Bianca. Questo oggi per raccontarvi come la politica americana in certi casi poi somiglia a tante altre politiche occidentali. Me ne verrebbe in mente una che ha sede qui a pochi metri dagli studi di Radio 24. Specter comunque ha detto che ritengo che la mia filosofia politica sia più in linea con i democratici che non con i repubblicani, che il partito repubblicano si è spostato sempre più a destra, troppo a destra per i suoi gusti, e che adesso è stata una decisione dolorosa, sa di aver deluso alcuni colleghi, ma insomma ha seguito il suo istinto. Non sarà comunque, non prendetemi come un automatico 60° voto, non avrò paura di non essere d'accordo con il Partito Democratico, manterrò la mia indipendenza. Insomma, in linea massima comunque è a disposizione del presidente ed in corsa sotto le insegne democratiche per il voto di metà termine in Pennsylvania. Ultime notizie, ruotano tutte attorno a Barack Obama e al suo discorso con cui celebrerà questi benedetti 100 giorni, che ormai, come dire, un po' ci hanno anche stancato. I sondaggi fioccano e sono talmente tanti e talmente tutti uguali che non ve ne parliamo, ma uno per tutti invece lo citiamo, ed è quello secondo il quale c'è una persona in questo momento molto più popolare di Barack Obama in America, ed è sua moglie, cosa che potrà magari indispettire il presidente, ma di fatto Michelle Obama raggiunge delle cifre che lo stesso Barack si sogna: 76% di approvazione rispetto al 68% di inizio gennaio, rispetto al 64% di Laura Bush, al povero 60% di Hillary Clinton. Una first lady così gli americani se la sognavano da anni, al punto che la stanno ribattezzando con un nome ancora più tenero, magari dedicato anche a quella sua cura particolare per gli affari familiari. La chiamano la first mom, la prima mamma. Oh, well, I love you, pretty baby. Just as long as you stay with me, the whole world is my throne. Beyond here lies nothing, nothing we could call our own. Well, I'm moving after midnight down boulevards of broken cars. Don't know what I'd do without it, without this love that we call ours. here lies nothing, nothing but the moon and the stars. Every street there's a window, and every window made of glass. We'll keep on loving pretty baby for as long as love will last. Beyond here lies nothing but the mountains of the past. Questo è l'uomo che è in tournée da tutta la vita, come dice lui, ed è il suo nuovo album, onoratissimi di trasmetterlo, anzi ve lo passeremo e ripasseremo in questi giorni perché ne siamo, come capita assai spesso, entusiasti. Si chiama The Together Through Life, insieme attraverso la vita, ovvero il nuovo album di Bob Dylan, che tra l'altro pochi giorni fa è stato in tournée in Italia, e se al Messico, come dire, in questo momento non ne va dritta una, almeno una micro soddisfazione se la possono togliere, perché il disco di Dylan, con tanto di ospiti, Los Lobos e altri musicisti etnici, ha proprio i sapori giù del confine, no? Come sentite anche da queste fisarmoniche e dal sound così molto rilassato. Ti piace questo sound? Mi piace, tu hai la voce rocca di Bob Dylan, di Bob Dylan. Queste, faccio un complimento, lo queste so, sono questo. Cose per le quali ti potrei essere grato diversi a anni. Vita. Express yourself. Dunque, a proposito di Messico, a proposito di febbre suina, la benedetta febbre suina, i dati profondamente contrastanti tra l'Organizzazione Mondiale della Sanità e alcuni governi, una cosa della quale io non mi spiego esattamente come è possibile che i dati siano così profondamente concordanti. Ne siamo felici per i dati migliori, ma come funziona la questione? Poi, azioni delle società farmaceutiche che schizzano in alto nei listini borsistici in modo perfino sospetto. I media un po' sotto accusa per sensazionalismo, perché ci inzuppano, no? il pane in questo caso globale di disagio globale. Poi l'antica radicata paura, che è un fatto, noi non ce ne rendiamo conto. Noi abbiamo un atteggiamento piuttosto così provvidenzialistico nei confronti dell'influenza. Gli americani hanno il terrore dell'influenza, evidentemente un retaggio di tempi più difficili. Di fatto si ingrossano le fila di coloro che sostengono che la febbre suina possa essere del tutto o in parte o un pochino una bufala, anche se sembra populistico dirlo, insomma un oggetto di destabilizzazione, addirittura di speculazione. Noi vi chiediamo, vi abbiamo chiesto stamattina sulle nostre pagine di Express Yourself, è un eccesso di cinismo, è sano scetticismo, ci credete, non ci credete, dite la vostra. E mentre devo dire che dall'America arrivano notizie purtroppo brutte, lo stesso Obama dice di essere molto preoccupato e avverte di restare con la massima allerta sulla vicenda, i nostri ascoltatori che scrivono su Facebook, come sempre numerosi e appassionati, sostanzialmente se ne fregano, cioè nel senso che credono alla bufala in gran parte della febbre suina, fanno molte battute, c'è davvero poca preoccupazione. L'informazione non esce bene, non esce benissimo. Da tutto ciò. Per esempio c'è il parere emblematico di Massimo che dice: la pandemia più pericolosa che conosco è la febbre dell'oro, per difendere il proprio piccolo orticello saremmo disposti a qualsiasi bassezza. Poi c'è Anna Rosa: non c'è nessuna serietà nel diffondere e avvallare notizie che non hanno nessun fondamento neanche da parte delle autorità predisposte. Stefano congeda tutto in una battuta: viva le case farmaceutiche, fanno sempre più soldi. Questo è il tenore diaboliche, sataniche, voglio dire, non possiamo, no, credere fino in fondo a un'operazione di questo genere. Poi insomma ci vuole una complicità su sfere piuttosto elevate, mi sembra difficile. a divenire una cosa del genere. Flavio dice: un po' di sano scetticismo aiuta molto a vivere bene. Daniele scrive: come ogni cosa avvenuta dall'inizio della crisi si dipanerà all'insegna della sobrietà, anche la febbre non salirà oltre i 39,7 gradi. La lobby del pollo fritto la lobby del pollo fritto giustamente ci ha approvato. La lobby del pollo fritto. Vai. Allora Matilde invece un po' di paura ce l'ha, perché dice: non capisco perché dare informazioni sulla sanità mondiale e preoccuparsi per la propria salute sia etichettato come sensazionalismo e fobia. Che sia una bufala non credo proprio. Poi c'è un Alessandro molto pratico e persino quasi cinico: io aspetto solo che crollino i prezzi delle vacanze in Messico. Per andare, vuole per andare, andare in vacanza, certo, in aspetta che i prezzi si abbassino e poi ci va con la paura a generare degli altri. Poi c'ho Paolo che dice: a me sembra lo stesso copione della crisi, si tenta di edulcorare la realtà truccando i bilanci, tra un paio di settimane capiremo e ciù. Starnuto finale. Roberto dice: per alcuni sono le case farmaceutiche che spargono virus. Eccola che tornano incriminate. Per altri è una pandemia con risvolti da Nostradamus. Quante parole vengono dette, ma così poche sarebbero utili a tutti, e a chi dovrebbe dirle non parla. Claudio, scettico, come dire, di fondo, fondale. Siamo di fronte a fenomeni che non sono più chiari, dice. Luigi, that's globalization baby, questa è la globalizzazione carissimo, accadimenti del genere sarebbero passati inosservati una ventina d'anni fa, oggi i giornali sfruttano la presenza di notizie ovunque, la mancanza di informazioni reali. Anche i giornali non escono benissimo da questa battuta, invece c'è Lucio che ci consegna un'epigrafe: il complottismo, malattia senile dell'Occidente. E poi c'è Manuel: se ci facciamo prendere dal panico, puntini in sospensione, febbre suina, mucca pazza, pecora con lingua blu, aviaria, manca il pesce rintronato e poi siamo a posto. Pesce rintronato. Il pesce rintronato, questo è l'atteggiamento di Manuel e di tanti altri nostri amici su Facebook. È un paese immerso nello scetticismo. Che se ne frega proprio, te l'ho detto all'inizio. Accidenti. Leonello dice: non so se questa possa essere una bufala, ma sul South China Morning Post, perché quindi informatissimo, i nostri ascoltatori, cari ascoltatori, leggono la mattina il South China Morning Post di Hong Kong. Ho letto stamattina che le autorità sanitarie locali avrebbero richiesto alle farmacie di razionare la vendita delle mascherine protettive, che pare anch'esse stiano finendo e quindi facendo grandi affari. Tutte le farmacie del paese avevano esaurito le scorte, parliamo di Hong Kong. Massimo dice: qualcosa c'è, magari non sarà una pandemia come sperano i virologi, che si vedrebbero catapultati dall'anonimato più assoluto a un protagonismo mediatico quotidiano. Siamo, come dire, ormai un paese sciroccato. Disincanto dalla voglia totale di televisione. Umberto dice: mucca pazza è passata con pochi morti e molti conti in banca, è lavoro anche produrre questi eventi. No, non è lavoro, sarebbe crimine a parer mio, anche qualcosa di peggio. Forse solo a distanza, dopo e in lontananza, le acque saranno chiare. Ne hai uno per chiudere? Silvano, divertente: durante l'aviaria ho mangiato pollo come se piovesse, pagandolo pochissimo, quindi la discesa del prezzo del maiale sarà inversamente proporzionale alla salita del tasso di colesterolo. Povero me. Beh, alla messicana diciamo olè allora. Olè. Olè. Still, I've lost the way and will. Can't tell you where they went. I just know what they meant. I'm always on my guard, admitting life is hard without. The friend you used to be, so near and dear to me, you slipped so far away. Where did we go astray? I passed the old school yard, admitting life is hard without you. Ever since the day the day you went away, I felt an emptiness so wide. I don't know what's wrong or right, I just know I need strength to fight. Strength to fight that world outside. Since we've been out of touch, I haven't felt that much. From day to barren day, my heart stays locked away. I walk the boulevard, admitting life is hard without you near me. The sun is sinking low, I guess it's time to go. I feel a chilly breeze in place of memories. My dreams are locked and barred, admitting life is hard without you. Smart power, potere intelligente, è un'espressione coniata nell'uso politico dalla segretaria di Stato Hillary Rodham Clinton, ma pochi sanno che è stata una donna a creare il concetto già in piena era Bush. Significa un potere che non si affida alla bruta supremazia di una superpotenza, ma che impiega la gamma degli strumenti a disposizione, con particolare attenzione a quelli soft, in sinergia con un corretto uso della forza militare. Dal punto di vista ideologico è una reincarnazione dell'internazionalismo liberale americano che è stato interpretato da presidenti come Thomas Woodrow Wilson, Franklin Delano Roosevelt, John Fitzgerald Kennedy e in ultimo proprio da William Jefferson Clinton. La differenza è che questa volta sarà la prima in cui gli Stati Uniti sono pesantemente indebitati con potenze straniere e l'impulso ad usare la forza militare è nettamente diminuito dopo la disgraziata avventura irachena. Una lettura dei fatti che però guarda al futuro è quello che si propone in Homos e Caos, che è il rapporto annuale, il quinto rapporto annuale di Nomisma sulle prospettive economiche strategiche nel mondo. In studio al mio fianco, lo saluto, buongiorno, buon pomeriggio, anzi c'è un ospite abituale di Jefferson, si chiama Alessandro Politi, il direttore dell'osservatorio strategico di Nomisma, esperto di problemi di sicurezza e ha curato diversi spazi di quello che è in realtà un lavoro editoriale a più mani e anche di una interessante corposità, insomma sono circa 400 pagine, coinvolgono gli scritti di Lucio Caracciolo, di Angelo Antonio Rosato, che anche lui spesso qui ai nostri microfoni, Ilaria Maria Sala, che parla della Cina dove vive e scrive da tanti anni. Il rapporto è diviso in temi e ci aiuta a capire quali possono essere le prospettive economiche e strategiche del mondo, che è, se me lo permetti Alessandro, uno scopo, come dire, corposo, insomma non facile, anche perché suppongo che a un certo punto tu devi decidere da dove partire, no? Guardando un po' con questo binocolo allo snodo del fine d'anno, dei 12 mesi così immaginari che ci possiamo provare, quali possono essere i focus principali su cui lavorare? Cosa hai scelto, cosa avete scelto in questa occasione? Beh, direi che la partenza è facile e difficile al tempo stesso. È facile perché si parte dal Pacifico. Ogni anno si parte dal Pacifico, non è una moda, è un fatto. Poi si va all'Oceano Indiano, poi l'Africa e poi, diciamo, Atlantico, Mediterraneo. Quindi l'eurocentrismo lo diamo per morto. No, direi che è meglio partire da lontano per sapere poi dove ci si trova. Certo. Ecco, è un, diciamo, una spirale che si avvicina poi a chi siamo, ma sappiamo chi siamo anche per dove stiamo, certo, e cosa ci circonda. È difficile perché all'inizio di ogni anno si può fare una scaletta, ma poi quello che è la visione d'insieme non so cosa scriverò fino a quando non vedo i fatti di un anno organizzati in un modo, un metodo nostro per matrici, e comincio a vedere quali sono delle tendenze all'interno dei vari scacchieri e tra gli scacchieri. Questo, diciamo, è difficile, perché al tempo stesso ogni anno c'è anche un tentativo di elaborare teoricamente nuovi concetti di politica internazionale per chi decide, non, insomma, per un gusto accademico astratto, ecco. Certo, tra l'altro vi ricordiamo, soprattutto per chi ci ascolta da quelle parti, che l'11 maggio c'è una presentazione a Milano di questo lavoro. Possiamo dire dove si troverà? Sì, alle 17 alla sala Unicredit in via San Protasio 3. Benissimo. Insomma. Abbiamo fatto i nomi di alcuni collaboratori. Vuoi mettere l'accento su alcuni dei lavori che fanno parte del lavoro complessivo per le angolazioni che propongono? Per esempio, c'è molto spazio naturalmente dedicato al tema dell'energia e tutto ciò, no, che da questo tema può poi discendere. Beh, qui abbiamo toccato con Rosato gli aspetti della sicurezza energetica. Le osservazioni che lui fa sono grande asciuttezza, di grande concretezza, perché si tratta di non cullarsi adesso nel ribasso dei prezzi petroliferi. C'è la proposta di esplorare l'alternativa anche del compressed natural gas, che quindi significa per l'Italia una cosa fondamentale, e poi anche per l'Europa, diversificare il portafoglio delle fonti energetiche, che è esattamente quello che fa la Cina. Un'altra cosa che noi abbiamo guardato con molta attenzione, proprio partendo dallo smart power, è quello che noi chiamiamo, abbiamo inventato noi, il Women Strategics. Significa considerare il fattore femminile nella grande strategia di un paese come un fattore di potenza strategico, esattamente come la finanza, le riserve, le forze armate. È veramente una lettura innovativa con cui, tra l'altro, apri il saggio che trae le conclusioni di questo lavoro, che è scritto in prima persona, di cui abbiamo ascoltato l'attacco in apertura di questo spazio, ma su cui vogliamo sapere un po' di più, perché sono veramente fattori nuovi. Cioè, riporti in discussione il tema dello smart power, che è stato naturalmente molto, molto discusso e che fa tuttora parte delle strategie americane con il 44esimo presidente, ma però estrae dal cilindro questa idea delle Women Strategics, che mi sembra molto interessante. Women and Strategics, che mi sembra molto interessante. Dici qualcosa di più? Dov'è la variabile? Dov'è il dato innovativo, il fattore di rottura? Smart power non è altro che in salsa democratica quello che credo Luttwak tra poco ci proporrà come la grande strategia di Bisanzio. Ecco. Quindi, visto che non si può andare alla romana imperiale repubblicana, Bisanzio è più diversificata. Women Strategics Roma era per Bush, andava bene per Bush. Infatti, ma loro si dicevano figli, certo, di Marte, certo, Kagan, certo, ancora, certo, me lo ricordo, certo, con un dente piuttosto avvelenato da europeo, certo, francamente. Certo. Ma il fatto del Women Strategics significa andare, uno, alla radice di questa crisi, che è una crisi di un modo operativo molto maschile, forse esasperato, che ha perso i suoi forse bilanciamenti interni. Quindi significa capire che ci sono altri modi per strutturare l'azione di medio-lungo, non mantenendola più come un fiorellino aziendale, giusto per dire, sì, pensiamo pure a lungo termine, ma poi che si importa c'è il breve. Certo. Poi si tratta di una cosa che si osserva nei paesi che sono più competitivi. La misura, diciamo, di potere dato alle donne, quello che si chiama Gender Empowerment Measure in linguaggio ONU, è una misura complessa, quindi non bastano le parlamentari o le donne ministro, sono un indicatore. Però i paesi che sono molto competitivi in genere riescono a valorizzare meglio il loro potenziale femminile. E c'è un dato di novità in questo nella selezione di questi paesi. I paesi latini, no, tradizionalmente sciovinisti, stanno un po' ribaltando le abitudini o no? Beh, io quello che mi ha molto colpito è la frenesia che ha preso gli Emirati Arabi Uniti. Ecco, per esempio. Che sono ancora diverse posizioni sotto l'Italia, ma non troppe. Allora, e qui naturalmente è chiaro che stiamo adesso in piena campagna di candidature europee. Certo. Il numero conta. C'è le polemiche di solo ieri sera mi sembra che durino già da qualche annetto. Oh, questo tipo di polemiche, ma insomma i numeri sono una cosa, dove sono distribuiti è molto importante. Quindi se si parla di quote rosa non basta il Parlamento, ci vogliono anche le quote rosa negli organi di partito. C'è una massa critica, soprattutto c'è un modo diverso di affrontare i problemi e di farli sinergici, perché non è un problema adesso di è un problema di Tao, di Yin e di Yang, se vogliamo. Va bene, continuiamo tra poco. Well, I did come here deal with a doggone thing. I just came here to hear drop a simple ring. There ain't no way you can put me down. I just wanna say that hell's my wife's old town. Well, there's reasons for that and reasons for this. I can't think of any just now, but I know they exist. I'm sitting in the sun till my skin turns brown. I just wanna say that hell's my wife's hometown. Hometown. Hometown. Alessandro Politi, il direttore dell'Osservatorio Strategico di Nomisma. Stiamo parlando di Nomos e Caos, questo rapporto annuale di Nomisma sulle prospettive economiche, strategiche e del mondo. Stiamo parlando di fattori innovativi, stiamo parlando, strano dirlo, fattori innovativi, stiamo parlando di donne, ma in realtà era così. Vogliamo concludere un momento comunque il ragionamento che stavamo facendo, perché è veramente una lettura trasversale molto, molto intrigante. È forse il più antico fattore innovante. Certo. Nato forse da una costola, ma insomma che si è sviluppato assai bene, sì, altro certo. Che tanti i focus di interesse di questo rapporto. Poi, come dice Mark Twain, dice la storia non si ripete mai, ma magari certe volte fa rima, dice lui, certe cose si somigliano. Qua poi si fa un rapporto annuale, ma poi non so, arriva la febbre suina o arrivano cose strane, tipo un presidente americano che tutto a un tratto si ricorda che c'è Cuba, e su questo mi piaceva spendere quattro parole. Arriva tra l'altro è arrivata poco fa una agenzia che dice: Cuba non è quella che deve fare passi dopo la revoca da parte del presidente Obama di alcune restrizioni nei confronti dell'isola, che anche se positive sono di conseguenze minime. Questo è Raul Castro che parla nel corso della riunione del movimento dei non allineati e dice: l'embargo è rimasto lì intatto, non esiste alcun pretesto politico né morale che giustifichi la continuità di tale misura. Insomma, rimanda la pallina da ping pong, no? Se esisterà mai una partita di ping pong come quella leggendaria, la rimanda in America. Che cosa sta succedendo da quelle parti, a tuo parere? Beh, innanzitutto questa necessità di una ripresa dell'America Latina l'avevamo già vista, non in questo rapporto ma in quello precedente. Cioè avevamo notato come l'America Latina andasse veramente con le sue gambe per larga parte, e in questo gli americani non facevano nemmeno c'è più il gringo cattivo, certo, insomma, non fanno più paura. Questo significa però... È uscita indenne in fondo da due mandati Bush, l'America Latina, in un certo senso, no? Diciamo che Bush non aveva tempo né voglia, certo, di occuparsi, certo, seriamente, certo, di questa faccenda. Obama sa che invece questo tutto sommato non è banale. Certo. Il gioco delle parti adesso tra Obama e Raul Castro è un grande classico tra una grande democrazia con mille problemi e un regime che non sa dove andrà. Certo. E quindi ecco tutti i negoziati, tutte queste mosse, diciamo, pubbliche. Ma la sostanza è che Obama, almeno come concetto, vuole riprendere un filo in America Latina, che questo non avviene gratis, cioè, questo significherà ampliare l'agenda, significa non solo abbandonare certi metodi, cosa che lui ha fatto quando ha condannato senza mezzi termini un attentato contro Evo Morales, che non era esattamente in cima alla lista delle simpatie della passata Casa Bianca. Significa anche mettere mano al portafoglio, immagino. Sì, significa affrontare in modo asimmetrico la concorrenza cinese. Certo, certo. Perché i cinesi hanno fatto una mossa geniale, hanno scavalcato tutto, diciamo, la potenza militare americana nel Pacifico con una mossa diplomatico-commerciale. Questo, certo, è, diciamo, e lo stesso hanno fatto in Africa. Questa è la cosa affascinante. E come finisce dal tuo punto di vista profetico, diciamo così? Cuba? Sì. Beh, prima si toglie l'embargo, prima il regime avrà seri problemi di mantenere un consenso che pure ha ancora dei suoi punti forti. E appena, diciamo, si amplia il ventaglio di scelte, sapendo che in America Latina ormai, insomma, di regimi che fanno attenzione ai poveri non c'è soltanto Cuba, e forse lo fanno anche meglio o con più mezzi, beh, insomma, l'equazione cambia. È vero che c'è la variabile venezuelana, che è una variabile che appunto tenta di coagulare un certo discorso anti-USA, poi per funzioni molto più pratiche, diciamo. E in questo c'è una connessione bolivar-iraniana tra appunto il bolivarismo e l'Iran, che è insomma un'alleanza abbastanza tattica, ma che dal punto di vista politico e petrolifero è interessante per una serie di paesi minori dell'America Latina. Bene, io ringrazio Alessandro di essere stato qua, Alessandro Politi, di essere stato qua a presentarci questo lavoro. Vi ricordo che a Milano esiste una presentazione in programma per l'11 maggio, che presto poi questo materiale sarà accessibile online, anche vero? Sì, sì, sì, verranno considerati prossimamente. C'è una presa di posizione dell'Osservatore Romano su Barack Obama, in fondo anche loro devono dire, insomma, che cosa ne pensa di questi benedetti 100 giorni, visto che Barack Obama tardivamente ha detto che vuole sapere cosa il mondo pensa dei suoi 100 giorni, e c'è cautela, gli dicono, a proposito di donne, no, di cui parlavamo con Alessandro fino a poco fa, qui la questione è sulla pelle delle donne, la questione in realtà è l'aborto essenzialmente, è primario in questo momento oggetto di disputa fra Vaticano e nuova amministrazione americana. Anche sulle questioni etiche, scrive l'Osservatore Romano, Obama non sembra aver confermato le radicali novità che aveva ventilato. Le nuove linee guida riguardanti la ricerca sulle staminali embrionali, precisa il Foglio Vaticano, non danno infatti seguito al cambio di rotta prospettato mesi fa. In sostanza, il giudizio è che Obama è rimandato. E questa era la puntata di oggi di Jefferson 2, l'arte da svolta. Scusate la voce, ma resta comunque sempre quella di Stefano Pistolini. In redazione c'è Emiliano Enrico, in regia a Roma Valerio Rocchetti, a Milano Valeria Bernardi. La mail è jefferson2@radio24.it. Le pagine Facebook ormai leggendarie, no? Le conoscete. Per parlare con noi usate redazione Jefferson 2, per partecipare ai nostri focus, ai nostri dibattiti quotidiani usate Jefferson 2 Radio 24, Express Yourself, e come si diceva una volta, iscrivetevi numerosi, insomma, veniteci a trovare. Il programma lo ascoltate in replica, se volete, a mezzanotte, in podcast, sarà sul sito della radio piuttosto presto, invece la diretta è domani attorno alle 4 qui su Radio 24. Ci risentiamo. Jefferson 2, l'arte della svolta.